Eravamo sull'autostrada già da 3 ore col maresciallo, che pensavamo che palle oggi, neanche un negro per malmenarlo. Quando mi venne l'ispirazione, tutto d'un tratto con la coda dell'occhio, dentro una panda tutta scassata, un capellone drogato finocchio che già gli avevo tirato un fendente quando mi disse non ho fatto niente. Gli ruppi la macchina, 3 dita e un dente. Minchia, signor tenente.